Buonasera a tutti e a tutti. E con puntualità rispetto al quarto d'ora accademico iniziamo questa serata, questo incontro qui alla libreria Ubic con Giadel Andreetto e Guglielmo Pispisa e per parlare del loro ultimo romanzo La parola amore uccide. Abbiamo varie cose da dire sia a proposito del romanzo che a proposito degli autori. Anzitutto, a proposito degli autori, ormai sono 20 anni che Giadel e Guglielmo collaborano e scrivono insieme, seguono progetti narrativi di narrazione collettiva e hanno nel tempo usato diversi pseudonimi per scrivere insieme. Questo è la forse la prima volta che i loro due nomi compaiono affiancati sulla copertina di un libro o comunque per siglare un racconto. Ormai un po' di tempo fa, ma tuttora, insomma, comunque il nome continua a essere usato, hanno fatto parte, tutta la parte, insomma, del collettivo Kaizen e hanno firmato con questo nome diverse opere, tra cui, diciamo, ricordiamo La strategia dell'ariete, uscito per Mondadori ormai nel 2007. Ormai nel 2007, e a seguire, anche qui non ricorderanno, per le ormai defunte edizioni Ambiente, per la collana Verde e Nero, un romanzo intitolato Delta Blues, una specie di cover narrativa di Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, ambientata nel delta del Niger e che ha per focus la situazione legata allo sfruttamento petrolifero di quell'area, i crimini contro l'ambiente e contro le popolazioni che si compiono in quell'area. Ho riassunto brevemente Delta Blues e non La strategia dell'ariete, perché mentre Delta Blues si presta a essere riassunto, La strategia dell'ariete no. Quindi se volete, insomma, avere un'idea di che cosa succede in quel romanzo, nel primo romanzo firmato Kaizen, quello, insomma, ve lo dovete quantomeno sfogliare. Invece è rizomatico. È molto rizomatico, molto rizomatico. Ci sono almeno 4-5 piani narrativi e filoni che si intrecciano, si allontanano, si ritrovano, insomma, mentre Delta Blues è un libro più compatto, insomma, più facile da riassumere. Non per questo, diciamo, di architettura più banale, ecco. Poi con il nome Marco Felder, invece, 3 anni fa. Ormai ce l'hanno fatta, perché col Covid in mezzo, non ci si accorge che, no? 6 mesi. Esatto, sembra l'altro ieri, invece no, ormai è passato già un po'. Col nome Marco Felder avevano pubblicato il primo romanzo di quella che, insomma, non si sa se sarà una trilogia, una quadrilogia, una serie, o comunque, diciamo, il romanzo precedente rispetto a questo, Tutta quella brava gente. Poi chiederemo a Giadel e a Guglielmo perché a un certo punto hanno deciso di mettere in soffitta il nome Marco Felder, o che cosa è successo a Marco Felder, per cui poi il secondo libro della serie, con una di quelle scelte commercialmente suicide, hanno deciso di firmarlo con un altro nome. Ma è una scelta che condivido, perché anche il collettivo di cui faccio parte io ne ha fatte del genere, quindi non posso che essere d'accordo. Però ecco, è strano che un libro che si presenta non tanto come il sequel, ma come una seconda puntata, insomma, di un'ambientazione comune con personaggi comuni, sia scritto e pubblicato con nomi differenti. Questo, insomma, per dire che Giadel e Guglielmo, insieme ai loro compari, il collettivo Kaizen è stato formato da 4 persone, insomma, La strategia dell'ariete era scritto a 4 mani, da comprese loro due più Aldo Soliani e Bruno Fiorini. Per dire che, insomma, è tanto tanto tempo che lavorano insieme, ma non è soltanto tanto tempo. In questi giorni casca proprio il 20ennale del loro sodalizio, E mi piace ricordarlo perché insomma c'ero anch'io quando si sono conosciuti, e quindi sono contento insomma che la cosa abbia avuto una durata ben superiore alle aspettative, perché alle origini diciamo della loro collaborazione c'è un cosiddetto romanzo totale, cioè un progetto elaborato insieme al giornale Sabato Sera di Imola, la casa editrice Bacchi Lega di Imola, Paolo Bernardi di Imola e Andrea Pagani di Imola, quindi insomma, tutto nasce più o meno nella città sforzesca. Io non c'entro niente con Imola, però ero stato coinvolto in questo progetto, che in sostanza consisteva nello scrivere un romanzo a più mani online, del quale lo spunto iniziale, il capitolo centrale, il capitolo finale erano stati scritti e furono scritti da me, e poi il secondo capitolo, il terzo, il quarto, il sesto, il settimo, l'ottavo, eccetera, erano invece selezionati a partire da proposte fatte dagli internauti, diciamo, da chi voleva partecipare al progetto. Uno dei capitoli selezionati era firmato da Jadel, uno dei capitoli selezionati era firmato da Guglielmo, uno dei capitoli selezionati era firmato da Aldo Soliani. Bruno no, però comunque però ne aveva mandato forse uno, non mi ricordo, questo non me lo ricordo. Fatto sta che alla presentazione del volumetto, che poi ne venne fuori, ci trovammo ovviamente a Imola, e da lì partì tutto quanto, insomma partì l'idea da parte di alcuni di coloro che avevano partecipato a quel progetto di continuare a provare a scrivere insieme, a raccontare insieme, e insomma da allora sono passati 20 anni e loro sono ancora qui, quindi non soltanto sono ancora qui, che insomma non ci sarebbe da stupirsi poi più di tanto, ma sono ancora qui insieme e continuano a fare progetti narrativi e di scrittura insieme. Fatte le presentazioni insomma dovute, visto il ventennale, che è una cifra importante, si era appunto nel marzo del 2002, passiamo invece al contenuto del romanzo, che in qualche modo è influenzato dalla dicotomia degli autori e dalle loro provenienze, perché Kaizen è uno di quei collettivi messo alla prova dalla geografia. Io mi ricordo che molti anni fa, più di 20, uscì un'antologia, una compilation, come si dice nella musica, di gruppi musicali geographically challenged, cioè messi in difficoltà dalla geografia, perché erano collettivi di musicisti che abitavano uno a Chicago, uno a New York, uno a Kansas City, eccetera. Ed erano tutti gruppi fatti così. Ecco, loro sono un gruppo fatto così, perché Jadel è originario di Bolzano ma vive a Bologna, Guglielmo è messinese e vive a Messina, meno che tu non abbia delle altre origini, no, io non ricordo, e quindi insomma scrivere insieme, stando uno a Messina, uno a Bolzano, poi quando diciamo si uniscono a formare Kaizen, c'è anche Aldo Soliani, che è milanese, sta a Sesto San Giovanni, o almeno stava, nel frattempo non si è trasferito, insomma la geografia gli creava qualche problema, e di questa distanza geografica loro hanno fatto anche una cifra, insomma l'hanno trasferita nel loro romanzo. Perché in che modo l'hanno trasferita? Il romanzo, i romanzi sono ambientati a Bolzano. Bolzano è decisamente insomma un'ambientazione tutt'altro che di sfondo per questi romanzi, è presentissima con i suoi problemi e con la conoscenza della città che può avere soltanto uno che ci ha abitato periodicamente, spesso ci torna, ne ha scritto in passato perché è stato giornalista per quotidiani della zona. E dall'altra parte però questa Bolzano è anche vista, vissuta, abitata, inquadrata con lo sguardo, con la focalizzazione di un messinese, di un siciliano diciamo, Tanino Barcellona, che è un poliziotto che è stato dislocato appunto nella città sul tirolese, e che di conseguenza si trova, diciamo, a fare i conti con tutte le, non soltanto insomma le differenze classiche alla, giù al nord, diciamo, ma proprio con le caratteristiche della città anche inattese. In questo romanzo, l'apertura di questo romanzo ha a che fare con l'estate bolzanina e le sue temperature micidiali, che appunto di solito per uno che non conosce la città sono abbastanza impreviste e imprevedibili, no? E un siciliano difficilmente penserebbe di avere caldo a Bolzano, invece questa, diciamo, è il pretesto iniziale della narrazione. Quindi ecco, hanno trasferito le loro rispettive conoscenze. Poi vedremo se Guglielmo a Bolzano c'è stato e ha avuto modo, insomma, di vedere quello che ha visto Tanino, viene da pensare di sì. Hanno trasferito le loro rispettive conoscenze geografiche dentro al libro. Tanino Barcellona è un poliziotto, diciamo, per certi versi anche tipico, nel senso, no? È atipica magari la sua collocazione, ma in realtà dentro alla questura in cui lavorano le provenienze da diverse sono svariate, insomma, no? Come spesso accade nelle questure, che sono luoghi anche di in cui si interfacciano persone che hanno esperienze differenti, no? Per di più in Alto Adige, dove già di per sé dentro a una questura ci sono italofoni e germanofoni, persone che, insomma, appartengono alla cultura sudtirolese e persone che appartengono invece più alla cultura italofono, altoatesina, come si dice, e già questo crea frizioni, scambi, punti di vista diversi, attitudini diverse rispetto al mestiere, eccetera. Questi i poliziotti della questura di Bolzano, non, rappresentati nel romanzo, non sono soltanto Tanino, Barcellona, c'è anche un autoctono che si chiama Karl Rottensteiner, che è definito cowboy sudtirolese, è uno di quei classici bolzanini, insomma, per chi appunto conosce bene la città, che se ne vanno in giro con un abbigliamento appunto simile da Far West, simile da cavallerizzo dell'Arizona o dell'Idaho, ma in realtà hanno un maso in via Druso o alla periferia della città, oppure in Val Sarentino, insomma, però da quelle parti, ecco. E questo è, insomma, una caratteristica ben precisa. Poi c'è una poliziotta, Giorgia Tinebra, il cui cognome è particolarmente azzeccato, perché è una tipa, insomma, che ha elementi tenebrosi, diciamo così, e anche lei non è autoctona come origini, e poi ci sono tutte le altre figure, insomma, no? Ovviamente c'è un poliziotto carrierista che vorrebbe fare di tutto per prendersi tutti i meriti nella soluzione dei casi, anche quando non ce li ha. C'è l'ispettore capo, e ci sono due casi con cui questo gruppo di persone hanno a che fare nel romanzo, due casi che si intrecciano, insomma, no? Uno ha a che fare con l'immigrazione a Bolzano, non dico molto di più. L'altro invece sembra essere apparentemente un caso più interno alla questura, perché coinvolge una dirigente donna della questura, per la quale ha un particolare interesse questo Karl Rottensteiner, il cowboy sudtirolese. Il libro mescola diversi ingredienti, diciamo, del genere poliziesco, poliziottesco, giallo, noir, che non sempre si trovano insieme, anzi che spesso non si trovano insieme, perché da un lato c'è quella vena malinconica, diciamo così, tipica del noir, che è incarnata per esempio da un personaggio come Karl Rottensteiner, che ha degli evidenti rovelli interiori, ha uno squilibrio psichico anche piuttosto evidente, deve prendere farmaci, e quindi diciamo sembra essere più un personaggio da, al di là dell'abbigliamento, più un personaggio da tipico noir francese, da tipico polar, no? quel, con quell'aspetto più triste, più rottamato, più in difficoltà anche con il proprio mestiere, insomma, no? In crisi con quello che fa, anche se tutti in qualche modo sono in crisi con quello che fanno per motivi diversi. Poi però a fianco di questo c'è un lato anche comico del libro, no? Ci sono situazioni comiche, c'è una vena ironica, come c'è in più nel giallo italiano, diciamo così, no? E di solito non nel noir e nel polar francese. C'è la classica crime novel, diciamo così, nel senso che c'è un crimine, ci sono due crimini sui quali la nostra squadra indaga. E poi, come dicevo, c'è una grande importanza della location. Bolzano viene quindi non soltanto descritta, ma viene raccontata nelle sue tensioni, quelle vecchie e quelle nuove, che chiaramente non sono distinte, si sovrappongono negli stessi posti, cioè nelle stesse piazze che hanno visto le frizioni storiche tra l'elemento italofono, l'elemento germanofono, tra diciamo la occupazione anche della città da parte dell'Italia, quegli stessi luoghi vedono altre frizioni sempre di tipo etnico, principalmente, sembra una città diciamo che ha questo come tema principale, portate dai nuovi abitanti della città, no? Che alcuni percepiscono come nuovi invasori, che in generale portano scompiglio, perché diciamo, no? Questo il romanzo non, pur riportando vari punti di vista, tutti i punti di vista hanno in comune il fatto che la situazione della città non è certo serena, ecco, no? Non c'è un punto di vista che cerchi di edulcorare la pillola o di presentare il problema come un non problema, evidentemente, no? La questione si pone, e fa emergere lati oscuri dei nostri personaggi, perché appunto non ce n'è di più consapevoli e ce n'è di meno attrezzati a rapportarsi con l'altro, con il diverso, sia nella città sia all'interno della questura stessa. C'è il capo, l'ispettore capo, mi pare che sia quello il grado, io mi confondo sempre che non mi intendo molto di questure, l'ispettore capo ha una moglie inaspettatamente per alcuni scura, di carnagione, e invece poi chiaramente all'interno della stessa questura ci sono persone che appunto non si aspettano che un poliziotto abbia una moglie così, e fanno molta fatica a rapportarsi con la diversità che attraversa le strade di Bolzano, sia appunto quella storica che quella odierna. Questi sono un po' gli ingredienti del libro, e non vado oltre per non spoilerare da una parte, sia perché invece appunto su queste questioni mi piace sentire che ne pensano gli autori, a partire insomma dal loro scrivere insieme, dalla questione che abbiamo sfiorato del cambio di nome da un libro all'altro di quest'ultima serie, e poi insomma un po' come hanno lavorato con questi ingredienti che ho cercato di elencare brevemente. L'ospite. Comincia l'ospite. Che bello, ragazzi, ritrovarsi insieme, insomma, dopo questo paio d'anni in cui ci eravamo abituati a fare presentazioni solo online, no? Perché effettivamente per voi, però per quanto riguarda me, questa è la prima volta che faccio una presentazione in carne e ossa da quando è scoppiato l'inferno. Devo dire, sono quasi emozionato. No, sono emozionato. E soprattutto sono contento perché la faccio con ovviamente il socio Jadel, che non vedevo appunto da 2 anni, e con te, che veramente ci hai tenuto a battesimo 20 anni fa. E quindi insomma, doppiamente contento, poi, a parte gli amici che vedo qua in giro. E da cosa partiamo? Dal fatto di avere da come è nato, diciamo, l'idea di scrivere questa serie, questo tipo di romanzi, che effettivamente si allontana un po' da quello che eravamo abituati a scrivere come Kaizen e poi anche insomma nei progetti successivi. E è venuto puramente per il piacere di farsi stuzzicare da qualcosa di nuovo, cioè quelle cose. Perché non scriviamo un giallo? Qualche volta dovremmo scrivere un romanzo giallo, quelle cose che si dicono a cena. E è nata veramente così. Adesso non ricordo dove e quando, però è nata proprio così. Dovremmo fare una, ma come facciamo? Eravamo già in una fase in cui praticamente scrivevamo solo io e lui, insomma, i progetti che portavamo avanti, perché insomma Aldo per ora preferisce fare altro, Bruno c'ha i suoi tempi, queste cose, quindi insomma diciamo così, understatement. e quindi insomma era chiaro che le prossime cose le avremmo fatte solamente noi. Come facciamo? Potremmo scrivere appunto un giallo in cui invece di esserci un protagonista ce ne sono due. Però siccome comunque un giallo è un romanzo di genere, quindi se scrivi un romanzo di genere devi avere anche l'umiltà di accostarti a un genere che ha delle regole e che devi quantomeno tenere in considerazione, non dico rispettare fino in fondo, però anche prendere in giro se vogliamo, però comunque devi tenere in considerazione, se no scrivi altro, è inutile che fai. Ci viene appunto l'idea di giocare con questi due protagonisti in modo abbastanza tradizionale, se vogliamo. Facciamo un gioco di un conflitto nord-sud, no? Cioè, è la cosa più ovvia da fare per noi, anche se vogliamo più semplice, però giochiamo anche con degli stereotipi, perché se appunto scrivi un giallo non puoi prescindere da alcuni stereotipi, alcune figure che ci devono essere in un romanzo giallo. Però abbiamo cercato di farlo a modo nostro, cioè l'idea che ci stuzzicava era proprio questo: scrivere sì un giallo, ma farlo a modo nostro, sfruttare un due piani alternati, diciamo, di nord, sud, settentrione, meridione, anche per creare l'elemento comico, però mettendoci dentro anche una frizione che non fosse semplicemente che non portasse semplicemente all'idea comica fine a se stessa, ma che potesse arrivare da un'altra parte. E dove l'ambientiamo? L'ambientiamo o da me o da te. Mancavano i gialli in Sicilia. Siccome appunto in Sicilia qualche esempio già c'era, anche abbastanza blasonato, abbiamo detto: ma cambiamo, invece di fare il giallo a metà di Sicilia in cui si mangia la pasta alla norma, che facciamo un'altra cosa. Bolzano effettivamente si prestava, perché sia perché era sicuramente una location meno sfruttata, meno usurata da questo punto di vista, e sia perché, questo io ho cominciato a scoprirlo perché lui me ne parlava, mi ha fatto insomma leggere delle cose eccetera. Io Bolzano la conoscevo da turista, c'erano stati anche a presentare un romanzo totale vari anni prima, quindi sì, sapevo com'era, però appunto chiaramente era una conoscenza superficiale. Ho scoperto invece che è un luogo molto prolifico dal punto di vista del materiale narrativo, perché è pieno di conflitti, e quindi se c'è un elemento che non può mancare in una narrazione, quello è il conflitto. E sicuramente Bolzano non la batte nessuno da questo punto di vista, e conflitti di natura identitaria, quindi gli elementi in assoluto più stimolanti, per, io penso, per un narratore. E quindi siamo partiti così. Ed è venuto fuori un po' gradualmente tutto il resto. I due investigatori, Danilo Barcellona e Rottensteiner, che anticipo una domanda classica che viene fatta: non è necessariamente io scrivo Danilo Barcellona e lui scrive Carlo Rottensteiner, ma ce li scambiamo tranquillamente. Vero è che Danilo Barcellona è ispirato a un poliziotto che io conosco e Carlo Rottensteiner è ispirato a un poliziotto che lui conosce, ma al di là, diciamo, di questo elemento di partenza. E Danilo ha i tuoi stessi disgusti gastronomici. Ragù di zombie. Il ragù di zombie, in realtà quello è un mio, è un ricordo personale mio, insomma, che è chiaro che uno ci mette del suo, dei tempi del servizio militare. Quello è il ragù di zombie, è una roba, ragazzi, lasciamo stare. Comunque, e il primo romanzo lo abbiamo molto incentrato sulla questione identitaria storica di Bolzano, perché anche ci sembrava giusto che Bolzano fosse il terzo grande protagonista della storia, insieme appunto a Barcellona e Rottensteiner, perché sarebbe stato un peccato utilizzare un luogo come Bolzano, una storia come quella di Bolzano, semplicemente per fare da sfondo, da cartolina a una storiella gialla. E quindi abbiamo messo al centro quel luogo anche attraverso tutta una serie di accorgimenti linguistici, se vogliamo, poi magari possiamo parlare più avanti, perché emergesse proprio il genius loci di Bolzano insieme al genius Tanini e a quello di Rottenstein. In questo secondo romanzo, ovviamente Bolzano rimane sempre come elemento fondamentale, come protagonista, però ci siamo diciamo più distaccati dalla questione storica identitaria per andare a affondare il coltello nella cronaca, che non è assolutamente esente da conflitti di tipo identitario, solo che sono identità diverse, e inaspettatamente diverse in realtà, perché ci sono momenti nella storia, nella narrazione, in cui delle reazioni magari di tipo razzista, per dire, che ci si aspetterebbe che avessero alcuni, e invece ce le hanno degli altri, dai quali invece non te l'aspetteresti. Anche qui abbiamo cercato di giocare e utilizzare gli stereotipi a modo nostro. E anche una questione accanto appunto a quella identitaria calata nella cronaca di tutti i giorni, una questione non la definirei di genere, però forse un po' sì, che quella a cui forse è legato di più la ragione del titolo, la parola amore uccide, no? Che è la storia, insomma il filone della storia legata appunto a quello che Giovanni giustamente identificava come più interna alla questura, insomma questo caso che riguarda un dirigente della questura di Bolzano, che insomma per tutta una serie di questioni si trova coinvolta in quello che potrebbe essere un omicidio passionale, oppure qualcos'altro, oppure una trappola terrificante messa in atto da un criminale che a un certo punto fa capolino, ma effettivamente la cosa che abbiamo cercato di rendere anche è fare una sorta di doppio salto mortale, in realtà, perché abbiamo tematicamente collegato questa seconda storia alla prima, in realtà. Su questo non posso andare troppo in là nella spiegazione, mi rendo conto che forse sembrerò un po' criptico, però le due storie hanno una concatenazione, se non di tipo fattuale, quantomeno di tipo tematico. E non so se c'era, magari mi taccio e faccio parlare il socio, così stavo pensando prima a questo continuo rapporto con l'altro da sé che c'è in questi romanzi, no? Nel primo l'altro da sé ovviamente è la questione legata alla città, è legata alle due identità che la animano e che da sempre si confrontano, confliggono, alle volte si ritrovano e poi si perdono. Io dico sempre che è una città in cui le persone di lingua italiana vibrano, le loro particelle vibrano in modo diverso rispetto a quella di lingua tedesca e quindi non si incontrano mai nella realtà fisica, hanno un diverso passo, vivono in due dimensioni parallele, ogni tanto si intravedono, ma è molto difficile che vengano in contatto, se non raramente. Questo succede in delle persone come Karl Rottensteiner, che ha la madre italiana, no? E quindi rappresenta a sua volta un incrocio di identità. Ecco, nel primo romanzo questo è molto presente. Il primo romanzo affonda la narrazione nelle radici dell'odio che ha alimentato quelle terre per cent'anni ormai, perché in fin dei conti il Sud Tirolo diventa italiano durante la guerra mondiale, quindi insomma sono passati cent'anni, diciamo, da quando il Sud Tirolo è considerato territorio italiano ed è una colonia, no? Noi italiani che viviamo in Sud Tirolo siamo tutti figli di coloni, e questo è strano da dire, ma in effetti è così. Mio padre è trentino, mio nonno era veneto, mia madre è nata in Francia ma era friulana. Tutti i miei amici, quando chiedo lumi sulla loro provenienza, mi dicono: no, mia madre è pugliese, mio padre era sardo, istriano e via dicendo. La cosa strana che succede a Bolzano è che però diventiamo tutti bolzanini, no? Mentre a Bologna, no? Addirittura si utilizza Marco di Ravenna, no? Hai presente Salerno, esatto, Bozen. Cioè, comunque Bozen. Hai un'indicazione, un'indicazione di origine protetta, no? Quando stai qua, no, là diventi bolzanino, perdi il tuo dialetto e cominci a parlare come me, come se il modo in cui parlo io, quindi un italiano sì vagamente nordico, ma insomma. E quindi non l'identità, no? Perdi le tue radici, diventi bolzanino. Eppure però hai a che fare con un'identità, e cioè con le persone che stavano lì prima di te italiano, e questo è continuamente in conflitto. Ed è un conflitto che viene alimentato continuamente per ragioni sociopolitiche e tutto quello che volete. Questa situazione ha portato, soprattutto nella seconda parte del Novecento, a degli estremismi estremi. Delle situazioni letteralmente esplosive, nel senso che comunque Bolzano è stata, o comunque il Sud Tirolo è stato uno dei primi luoghi dove ci sono state degli attentati terroristici sul suolo italiano, ed è forse anche l'ultimo luogo dove sono esplose delle bombe. Io lo ricordo, avevo 16 anni e sono stato svegliato nel cuore della notte da un tuono, e non era un tuono, era la RAI che saltava in aria. L'ultima bomba risale, se non erro, al 92. Io conosco una persona che si è trovata delle schegge di bomba a mano in una coscia, perché era andata al cinema, cioè un tizio ha lanciato una bomba dentro un cinema italiano, quindi vivevamo così. Però d'altro canto, vedete, qua c'è sempre la dicotomia, questa identità multipla e doppia, però Bolzano è considerata la città, no, turistica per eccellenza, la città bomboniera, no? Quando pensi a Bolzano pensi ordine, disciplina, ciclabili, mercatini di Natale, gerani sui balconi. Io invece penso a bombe, terroristi, quattro serial killer, record, cioè una cosa, il capoluogo di provincia, record. Quattro serial killer. E la figlia del mio maestro elementare è stata uccisa da un serial killer con 27 coltellate. Ok. Nell'appartamento accanto a quello di mia madre, per cui c'è proprio momenti di vita nella socialdemocrazia tirolese, che comunque per chi ci vive sono ben oltre l'immagine da cartolina che abbiamo di Bolzano. Per cui questo nel primo romanzo c'è, ed è un romanzo invernale, infatti è ambientato d'inverno, è un romanzo che è molto cupo rispetto al secondo, secondo me è molto freddo, è sicuramente, forse Carl è il personaggio che riflette questa cupezza, e che nel primo romanzo deve proprio fare i conti con l'abisso. Carl guarda nell'abisso nel primo romanzo e ci cade dentro, inevitabilmente. Il secondo romanzo invece è un romanzo estivo, e anche qui Bolzano sfata immediatamente, lo diceva Giovanni, sfata immediatamente un mito, no? Io ricordo i primi anni a Bologna, ah sei di Bolzano, ah che palle, sai che freddo anche d'estate, no. Cioè, Bolzano è una fornace d'estate, è la città, guardate le temperature, è la città più calda d'Italia, perché è in una conca. Però anche questo è strano, no? Tutti pensano che sia in alta montagna Bolzano, no? Cioè, non so, neanche benissimo da che ne so, dalla Bolivia. Quindi, insomma, anche sfatare l'immagine da cartolina anche da quel punto di vista ci divertiva molto. E questo, però, è un romanzo estivo. Si apre con una scena in piscina con Tanino, Barcellona siciliano, che si ritrova in piscina a Bolzano. A Bolzano c'è un parco in centro città con tante piscine, un posto bellissimo, però è ovvio che per un siciliano a piscina è abituato al mare, insomma. E però Tanino a un certo punto ci pensa e non gli dispiace, purtroppo, questo posto. Cioè, però non si sta così male, no? Quindi, in fin dei conti, ma... Anche se non lo direbbe in giro. No, non lo direbbe mai in giro, ma non sta male. Quindi Tanino, in qualche modo, si sta adattando e non gli sta dispiacendo questo luogo. Tanino, lo diceva Guglielmo prima, fa anche una cosa che nessun bolzanino farebbe mai. Impara il tedesco. Tanino prende appunti. Lui si scrive tutte le parole che gli dicono in tedesco, perché sai mai, nel suo lavoro può servire, no? Ed è quello. Gli torna utile. E poi gli torna utile, soprattutto in una situazione particolare che non andiamo a svelare, da risvolti grotteschi, se vogliamo, anche comici. Quindi lui si prende appunti, si segna le parole tedesche, impara il tedesco un po' a modo suo, però insomma. E questo è stranissimo. I bolzanini di lingua italiana, nonostante studino il tedesco dall'asilo, non parlano tedesco. Non parlano tedesco perché lo vivono come imposizione. Invece Tanino, con il suo sguardo altro, comincia a fare questa cosa. In questo romanzo, come diceva Giovanni, la questione dell'alterità rispetto all'alterità storica, quindi quella che viene raccontata nel primo romanzo, è un'altra. Qui c'è addirittura un salto mortale, un triplo salto mortale, perché oltre al conflitto continuo e permanente, che però è molto sotterraneo, no? Ctonio, che è quello tra italiani e tedeschi, ecco, qui arriva un altro elemento. Da qualche anno a questa parte, tutti i migranti che cercavano di attraversare la frontiera col Brennero e vengono fermati lì, non vengono fatti entrare in Austria, vengono rispediti in Italia e si fermano a Bolzano. La città non è molto grande e, appunto, al di là, appunto, dei serial killer e del terrorismo, è la città bomboniera, la città da cartolina. Ecco, dovete immaginare in questa situazione, quando si una comunità di migranti, con tutto ciò che ne consegue, arriva in una città del genere, insomma, crea scompiglio. I fatti di cronaca si sono succeduti negli anni e sono cresciuti esponenzialmente, ma stiamo parlando ovviamente di cose che a Bologna non finirebbero manco sul giornale, no? Uno scippo, uno spaccio, Però a Bolzano la situazione è diventata sempre più incandescente, c'è stata un'escalation di intolleranza e di violenza rispetto a queste persone. E abbiamo deciso di buttare un occhio su questa città, su questa città che deve affrontare, abituata ad affrontare l'altro da sé, che però a questo punto affronta qualcosa di completamente nuovo, qualcosa di diverso. Quindi una città che è sempre stata razzista a livello intimo lo diventa invece a livello pubblico. I casi di cronaca sono stati tantissimi, gli spunti sono stati tantissimi. Noi abbiamo, in questo romanzo c'è una, oltre alla narrazione gialla c'è anche un piccolo capitolo che torna ogni tanto, e l'abbiamo chiamato Qui Bolzanistan. Qui Bolzanistan è una trasmissione che viene fatta su YouTube in cui un reporter, diciamo così, un autonominato reporter documenta il degrado bolzanino. Vi lascio immaginare il degrado bolzanino, con tanto di commenti sotto. Ecco, quella è una parte che abbiamo inventato fino a un certo punto, ai noi forse l'abbiamo addirittura edulcorata. In effetti c'era un consigliere comunale della Lega che andava in giro e documentava il degrado, ma veramente riprendendo una coperta sporca e dipingendolo come, non so, no? L'invasione ormai arrivata, la sostituzione etnica e tutto ciò che abbiamo sentito da quelle parti. Alcuni dei commenti che abbiamo riportato sono veri, no, forse i più terribili in assoluto. Non abbiamo toccato neanche la virgola, anche perché le virgole poi erano le sgrammaticature, in effetti sono molto credibili. Esatto. Cioè, sono... poi alcune cose ce le siamo inventate noi, le abbiamo messe lì, però in effetti ecco, quella è la parte che mi ha colpito di più, perché mentre stavamo scrivendo questa cosa appunto siamo andati a leggerci un po' di queste di questi commenti e insomma abbastanza scoraggiante, e quindi abbiamo deciso di inserirli. Tra l'altro c'è anche l'ultima pagina di questo romanzo di cui siamo molto molto fieri. La scoprirete da voi. Detto questo, quindi un romanzo invernale, un romanzo estivo, c'è sempre la doppia faccia, c'è sempre l'altro da sé, c'è sempre qualcosa con cui confrontarsi. E la fa pure vedere. Giusto essere fieri. Spoileria. Essere riusciti a non scriverci niente. Hai capito. Detto questo, la questione di genere è un'altra questione che ha a che fare con l'altro da sé. E per noi che da sempre scriviamo tra maschi e abbiamo sempre provato a scrivere personaggi femminili, e insomma siamo sempre stati, ci siamo sempre sentiti un po' così, come se dovessimo camminare sulle uova nel descrivere personaggi femminili, perché naturalmente insomma non è che possiamo totalmente immergerci in una condizione che non è la nostra. Ecco, in questo romanzo invece secondo me, o perlomeno le lettrici che ci hanno dato dei feedback, ci hanno detto avete colto la questione, siamo riusciti, oltre a spingerci a vedere l'altro da sé perché magari ha una pelle diversa dalla mia, perché magari parla una lingua diversa dalla mia, ecco, ci siamo spinti anche in un territorio inesplorato e ci siamo, abbiamo messo i nostri personaggi sotto torsione, ma credo che anche noi due ci siamo messi sotto torsione a un certo punto per riuscire a scrivere certe cose, per riuscire a immaginare certe cose, per riuscire anche a, ci siamo chiesti noi da maschi come reagiremo di fronte a questa cosa, no? E quindi Tanino reagisse in un certo modo, ma poi ci siamo anche chiesti, sì, ma questa reazione come verrebbe presa dall'altra parte? Che cosa succederebbe? E poi abbiamo cominciato a ragionare tantissimo sulla, appunto, su che cosa le donne devono vivere in certi ambienti lavorativi, in certi ambienti sociali. Non è stato facile, ovviamente abbiamo chiesto aiuto a casa per farci spiegare esattamente certe cose. Io spero di esserci riuscito, spero di aver colto nel segno. Per ora le lettrici ci hanno detto di sì, però ovviamente insomma coi piedi di piombo, non è stato facile, però sì, ruota anche attorno all'altro da sé in quella direzione, non soltanto un altro da sé linguistico, un altro da sé se vogliamo etnico, ma anche un altro da sé proprio come questione di genere. Non è stato facile, almeno per me non è stato facile. No, per me è stato facilissimo. Certo, beh, infatti l'hai scritto tu quelle parti. No, no, è stato probabilmente la sfida maggiore di questo secondo episodio. Il momento sia nella scrittura che nel pensare allo sviluppo del personaggio, che adesso è un po' difficile. E dire delle cose spoiler, senza dire, cioè, senza spoilerare. Comunque che c'è un personaggio femminile secondario, sì, che subisce uno stupro. Che subisce uno stupro, e diciamo questa, no? Uno dei personaggi maschili principali che reagisce a modo suo a questa cosa, a un modo, diciamo, maschio, se vogliamo, virile, poliziottesco. Mm-hmm. Ecco, e questa cosa poi produce tutta una serie di effetti, una concatenazione di cause ed effetti diciamo, per noi narratori fa gioco, perché porta avanti la trama e esacerba, inasprisce determinati conflitti e ci consente di giocare a muovere i tasselli sul tavolo, ma da un altro punto di vista ci ha di fronte alla necessità di riflettere su come si evolvono i personaggi e da quel punto in poi, sia il personaggio maschile che quello femminile soprattutto. E lì è stata un po' una sfida, insomma, fare poi tutto questo comunque all'interno di un romanzo che è un giallo, quindi devi stare attento alla tensione, non devi sbragare troppo, non ti puoi permettere di concedere troppo a questa divagazione, però quindi è stata un po' tosta. Speriamo di essere venuti fuori quantomeno con onore. Autorialmente faticoso e anche umanamente faticoso, perché comunque devi fare i conti con delle situazioni che non hai mai considerato prima, o sì, a livello teorico, però no, invece cercare di immedesimarsi e anche confrontarsi, almeno io a casa mi sono confrontato molto su questo e insomma, ho capito alcune cose e ce ne sono tantissime ancora da capire, però non so se questa introduzione ha suscitato curiosità, domande eccetera, no, domande vediamo se le suscita, ma curiosità a voi. Dunque, io avevo lasciato il mio zainetto là dietro, non avevo voglia di alzarmi durante la presentazione per recuperarlo, per prendere della carta su cui prendere appunti, quindi ho ravanato nelle tasche e li ho scritti su uno scontrino di Buffetti e un biglietto FS usato Bologna-Ferrara, e però ho fatto come in carcere quando devono scrivere sulle cartine di sigaretta, cioè non ci capisco più niente, insomma, quindi provo a seguire questi assurdi diagrammi di flusso. Parto da suggestioni iniziali date da Giovanni, no? Che a un certo punto ha delineato un po' quali sono, li ha chiamati ingredienti della miscela, no? Elementi che voi avete ibridato per scrivere, cioè sottogeneri che mettete insieme e che spesso insieme non sono, no? E, intanto voglio dire una cosa, uno dei grandi pregi di questi due libri è che non sono noir all'italiana. Il noir all'italiana, che è quel corpus ormai immenso di romanzi molto simili tra loro, che sono tanto più reazionari quanto più i loro autori si dicono progressisti. Il poliziesco, il neopoliziesco italiano degli anni 90 aveva iniziato con una carica critica nei confronti della società, mostrare contraddizioni, guardava appunto alla Francia, a Jean-Patrick Manchette, a questo tipo di autori che cercavano di in qualche modo sovvertire il genere, e però quella carica critica in 20 anni si è completamente evaporata. Oggi il massimo che ti dice un noir all'italiana è che è tutto un magna magna, è un genere letterario, il più delle volte qualunquista, che racconta di un ritorno all'ordine, cioè un ordine che viene perturbato all'inizio dal delitto e poi insomma si ritorna all'ordine, che poi è l'ordine in cui tutto è un magna magna, ma è l'ordine praticamente. E a volte mi viene da dire che si è passati dal poliziesco come genere, cioè la polizia e le sue indagini era l'argomento, al poliziesco come mentalità. Ci sono in buona sostanza dei romanzi che ti dicono che polizia è bello, che pensare come la polizia è bello, che in fin dei conti lo stato di polizia non sarebbe poi questa roba così schifosa. È una degenerazione che nella storia del poliziesco è avvenuta a cicli, perché spesso il genere è stato innovato in maniera critica, ci sono state tante rivoluzioni del genere che poi tutte le volte però sono state recuperate e il loro segno si è capovolto. È successo con l'hard boiled americano di Hammett, un marxista, e Chandler, è successo poi insomma con tante altre manifestazioni di questo genere. Quindi non è un noir all'italiano. Che cos'è? Allora, dentro, giustamente, Giovanni ha detto che c'è molto noir francese, il cosiddetto polar, quello che viene chiamato polar, ed è, che sia intenzionale o no, che consciamente ci si sia ispirati a come si scrivono i polizieschi oltralpe post 68, comunque questa cosa è molto forte, una delle cose che rendono il libro diverso appunto dal noir all'italiana, perché evidente, le contraddizioni sono vere, non è che ci si limita a dire tutto un magna magna, le contraddizioni sono urticanti, non c'è nessun ritorno all'ordine alla fine di nessuno dei due romanzi, e soprattutto si mettono in scena dei poliziotti che sono nauseati dal proprio essere poliziotti, che a tratti se ne vergognano. Ci sono alcuni personaggi che sono sempre lì dal dare le dimissioni, oppure che magari hanno questo istinto dell'indagare, ma il fatto che lo facciano inquadrati nell'istituzione è puramente casuale, come Carl. Carl ha un istinto proprio da detective pazzesco, e però detesta di doverlo fare all'interno dell'istituzione. Però in Italia non esiste la figura dell'investigatore privato, si occupano di corna o di spionaggio industriale o di spinelli di ragazzini. Spinelli, cioè, vanno a spiare se tuo figlio si fa le canne, cioè il detective privato in Italia è una figura così, non riusci, cioè quando ne fai un protagonista di romanzi gialli, noir, polizieschi, è sempre una forzatura, perché le indagini in Italia le fa principalmente lo Stato. Di questa cosa bisogna tener conto, altrimenti si scrivono delle favolette, no? E quindi va benissimo mostrare dei poliziotti, però in una maniera che, cioè, crei un attrito, una tensione, no? E già delle Guglielmo questo sono riusciti a farlo molto bene, c'è proprio questo disgusto del proprio ruolo che hanno alcuni personaggi, oppure alcuni sono poliziotti per caso, ci sono arrivati per via del tutto traverso e sono ben consci che la polizia può fare veramente molto schifo. Insomma, questa cosa io l'ho molto apprezzata. Dopodiché c'è un altro sottogenere che inaspettatamente nel secondo romanzo si affaccia, che è quello del giallo classico all'inglese, il whodunit, il delitto della camera chiusa. E qua per me siete stati geniali, perché una delle difficoltà che si ha nello scrivere un giallo è inventarsi un caso, inventarsi un delitto, inventarsi un modus operandi difficile da sgamare. Voi qui, cioè, uno dei due casi di cui si devono occupare, quello che più li coinvolge intimamente, secondo me è uno dei più bei delitti che siano mai stati messi sulla pagina di un giallo italiano. Cioè, proprio è veramente. Grazie. E la soluzione che avete trovato, il modus operandi, rinnova il sottogenere obsoleto del delitto nella stanza chiusa in maniera molto contemporanea. È il minimo che si possa dire. E però allo stesso tempo classico, perché a me è venuto in mente che il poliziesco nasce con il delitto della stanza chiusa, i delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe. Certo. E la cosa interessante è che voi avete concepito un delitto della stanza chiusa dove, come nei delitti della Rue Morgue di Poe, è determinante che rumori sentono i vicini. Anche là la soluzione del caso sta nei rumori sentiti dai vicini, e anche qui, e non sto spoilerando niente perché no. È talmente vago come cosa, e quindi che l'abbiate pensato o no, c'è una sorta di omaggio a Poe in questa cosa qua, e mi è piaciuto molto. L'altro elemento che io ho trovato a cui ho pensato subito, anche solo per i due nomi e cognomi in copertina, nel loro caso erano solo i cognomi, Fruttero e Lucentini. Quindi non stiamo parlando del noir italiano, ma di due geni del poliziesco che hanno scritto negli anni 70 due capolavori come La donna della domenica e A che punto è la notte. Mi ha ricordato molto lo humor che voi usate nei dialoghi, humor ellittico con dei dialoghi in cui si gira intorno a delle cose senza dirlo, e anche il gusto per i giochi di parole, per le paronomasie che avete nei dialoghi e nei flussi di coscienza dei personaggi, ma soprattutto mi ha ricordato Fruttero e Lucentini per via di come rappresentate Bolzano. Nel loro caso era Torino, però usare il poliziesco per demolire tutti gli stereotipi che circondano una città e far vedere che in realtà ogni città è esotica. Ogni città è strana se tu arrivi a conoscerla davvero. Loro raccontavano Torino ogni tanto con degli insight micidiali, e anche in quel caso era uno sbirro meridionale, Santa Maria, siciliano, interpretato da Mastroianni nei film, quindi da un romano, però un siciliano, che ogni tanto guardava i torinesi e tirava fuori delle cose, cioè degli squarci di verità sulla borghesia torinese, sui suoi rituali, sul suo linguaggio, sul suo senso dello status, ma anche sulla classe operaia torinese, sull'architettura e l'urbanistica di Torino, sulle ristrutturazioni della città in corso che fatte solo da un torinese non sarebbero state. Anche in quel caso i due autori erano un autoctono e un foresto, perché Fruttero era di Torino ma Lucentini era di Roma. Ecco, quindi mi è venuta in mente questa cosa qua, la psicogeografia del poliziesco, che appunto come Fruttero e Lucentini, nel vostro caso voi demolite tutta una serie con lo sguardo anche del foresto, ma anche dell'autoctono disadattato. Carl è un autoctono disadattato e Tanino è uno straniero, no? E fate vedere delle cose di Bolzano che effettivamente raccontate in un altro modo forse sarebbero stati meno penetranti. E quello che fate vedere molto bene, la cosa che diceva Jadel, è insomma, questa è un'ambientazione postcoloniale. Noi siamo abituati a parlare di postcoloniale parlando di posti che stanno ai tropici o comunque al di là del Mediterraneo, nel sud del mondo, e ci dimentichiamo che in realtà le colonie sono anche in Europa. Come diceva Jadel, Trentino e Alto Adige sono una colonia dell'Italia, come lo è stata l'Istria fino al 1947, cioè territori che sono stati conquistati militarmente nel 1918. E a differenza dell'Istria, cioè Bolzano è più colonia, perché fino al 1918 praticamente non c'erano italiani. Era un territorio completamente germanofono, mentre in Istria degli italofoni c'erano. E la lotta armata che c'è stata nel dopoguerra in Alto Adige è una, agli occhi di chi l'ha fatta, è una guerra di liberazione, è una guerriglia coloniale, no? Tra l'altro è interessante perché non sono in contrasto questa sedimentazione della memoria della lotta armata indipendentista su Tirolese e la bomboniera è la conseguenza, nel senso che è stata proprio tutta la tensione etnica che c'era, la violenza di quegli attentati con la lotta armata, che ha spinto l'Italia a configurare l'Alto Adige in quella maniera particolare. Non è nemmeno una regione a statuto speciale, è una provincia a statuto speciale. Le regioni a statuto speciale sono Friuli, Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, ma il Trentino Alto Adige, nonostante venga messo nella lista, non è una regione a statuto, non è nemmeno una regione, sono due province autonome. La provincia autonoma e tutto il welfare che c'è e i miliardi che sono arrivati a pioggia in Alto Adige per congelare l'odio etnico tramite la socialdemocrazia altoatesina, in fondo sono stati una conseguenza di quella lotta armata. Cioè, paradossalmente si potrebbe quasi dire che è uno dei pochi casi in cui la lotta armata paga, cioè, tanto anche che paga, nel senso proprio che è arrivata proprio del termine, è arrivato proprio un sacco di pilla, ecco, su quella cosa lì, ecco. E, città di frontiera, e voi la giocate molto bene la cosa, perché fate vedere appunto che storicamente, essendo città di frontiera, ha delle caratteristiche sue, e oggi nella cronaca, essendo città di frontiera, quindi i migranti respinti al Brennero, ha acquisito ulteriori connotazioni questa stessa città di frontiera. Questa cosa mi è piaciuta molto, come poi appunto io mi interesso molto di territori di frontiera, di nord-est, di situazioni postcoloniali interne. Noi Guming con Bolzano abbiamo anche un rapporto particolare di frequentazione continuata, prolungata e anche strana, cioè nel senso che verrà presentato, credo, al Biografilm, un documentario su di noi fatto da Bolzanini, e quindi c'è questa roba qua. Non si danno anteprime, no, ma in rete già si legge questa cosa qua e là. La penultima cosa che volevo dire, la differenza che c'è tra come gestiscono l'identità collettiva, intesa proprio come nome Kaizen, e come la gestiamo noi, Booming. Noi abbiamo la regola che se... un libro scritto da almeno due di noi viene firmato comunque Booming, anche se non è scritto a organico completo. Invece voi siete il 50% di Kaizen e una volta vi firmate Marco Felder e l'altra volta invece vi firmate coi due nomi. Cioè, quindi voi in realtà andate oltre noi, cioè noi alla fine, cioè, sai, o scriviamo o Booming 1, Booming 2 o Booming, e voi invece state moltiplicando le identità, state giocando coi nomi. La prossima volta, proprio come Fruttero Lucentini, proporrei di mettere solo i cognomi Andretto and Pispis, di modo che proprio il richiamo è meno spazio in copertina, è anche più facile da dire Andretto and Pispis. L'ultima cosa che volevo dire è in realtà una domanda: esiste una narrazione intermedia tra questi due libri, che non è un libro su carta, ma è un podcast che è in preparazione, che riguarda proprio il cambio di nome. Cioè, che fine ha fatto quel Marco Felder che campeggia in copertina nel primo libro? Se magari volete dare qualche elemento per incuriosire, un teaser di questo podcast che verrà rilasciato nei prossimi mesi. Beh, Marco Felder è morto. E ha fatto anche una brutta fine, insomma, l'hanno ritrovato nei boschi sopra Bolzano durante la pandemia. Era sparito, si pensava che fosse finito nelle maglie dei morti della prima ora della pandemia, e che quindi fosse un po' scomparso così, e invece in realtà viene ritrovato in un bosco. E però Marco Felder siamo noi, e quindi allora, il tizio assiderato nel bosco chi è? Cavolo era? E soprattutto chi l'ha ucciso? E perché? Beh, questa è una storia che fa da ponte tra un libro e l'altro, e uscirà in 4 puntate come podcast. Lo posso tranquillamente dire, il podcast è stato comprato dalla Rai di Bolzano, e quindi uscirà anche su Rai Play. E abbiamo fatto un gioco meta narrativo, nel senso che abbiamo preso quello che era un nome così, non de plume, l'abbiamo trasformato in un'entità con una sua vita, una sua storia, l'abbiamo trascinato fuori dalla copertina di un libro e l'abbiamo inserito in un podcast. E le persone che hanno indagato sulla morte di Marco Felder, che vengono intervistate nel nostro podcast, hanno il nome poi dei protagonisti del romanzo, e quindi un po' pirandelliano. Cosa... è la questura di Bolzano che indaga, esatto. E ovviamente indagando vengono fuori tra i sospettati i nomi di Gian D'Andrea, di due scrittori che hanno prestato, diciamo, il loro volto a Marco Felder. Come diciamo sempre, di siamo Felder. I Milli Vanilli di noi stessi. Siamo i Milli Vanilli di noi stessi. O i Monkeys. Sì, no, è un... c'è questo esperimento, e tra l'altro poi Marco Felder è anche uno spettro che comincia ad aggirarsi per la narrativa italiana, e vedremo cosa succederà. Però in effetti è strana questa cosa, cioè passiamo da un libro all'altro attraverso un podcast. Trasformiamo ciò che non esiste in qualcosa che sembra esistere, e secondo me ci arresteranno per questa cosa. ascoltando il podcast. Forse è illegale. Forse stiamo facendo qualcosa di illegale. Non abbiamo fatto ascoltare tutto un avvocato prima. Come facciamo noi? Beh, lui. Lo so, ma sono io l'avvocato, io lo scrivo direttamente. Però magari una terza parte. Ci vuole. Con un po' più di distanza. Perché tu ti innamori di quello che scrivi, certo, quindi dopo. Dice no, ma questo. No, ma questo va bene, esatto, questo passa. No, la terza parte ci vuole. Poi io non sono un penalista. Comunque è stato. Sono civilista, quindi magari mi sfuggono delle nuance che ho preso. No, lo dicevamo all'inizio, c'è stato questo passaggio. Inizialmente il nome Marco Felder è stato un compromesso che abbiamo fatto con la casa editrice. Sì. Perché non volevano, non volevano il doppio nome in copertina, perché il doppio nome vende la metà. È vero. Cioè, è vero che crea difficoltà. Crea difficoltà. Tranne Fruttero e Lucentini. Però pensi che sia un nobile torinese per quello. Esatto, Fruttero e Lucentini. Giovanni Fruttero e Lucentini. Esatto. Voi avete fatto tipo Ellery Queen. Ellery Queen era il nome immaginario di due che scrivevano insieme. Esatto. Però non ci piaceva, non c'era qualcosa che non tornava. Noi siamo abituati agli pseudonimi, ai non piume, il nome collettivo Kaizen e il nome ultra collettivo Zoya Barontini. Insomma, abbiamo avuto a che fare con ulteriori autori collettivi che sono nati dai vari romanzi totali. Emerson Croft, che poi veniva fuori, il collettivo Emerson Croft prendeva il nome da Emerson Croft, un personaggio raccontato, sì, in guerra, gli umani. Insomma, sì, noi su questo proprio non abbiamo nessun problema. Però questo Marco Felder proprio non. Vabbè, non ci piaceva, e così l'abbiamo ammazzato. Perché probabilmente c'era, come dire, era troppo fine a se stesso. Mentre Kaizen ha una storia, ha un significato nelle pratiche che mettiamo insieme, oltre a quelle di scrivere, a una visione. Sì. Ti riferisci al toyotismo? In Marco Felder non c'era dietro una visione, c'era solo appunto l'artificio sì, del mettere un solo nome in copertina, certo, per voler significare due autori. Però non ci bastava, onestamente, questa cosa. No, Marco Felder non lo sopportavamo proprio. È anche un nome molto adesso lineare. Potrebbe, sì, molto lineare, mentre i vostri due veri nomi sono molto più così particolari, no? Voglio dire, mentre Marco Felder sì, un personaggio di Diabolik, dove tutti i personaggi hanno il nome, sì, italiano e il cognome, sì, tipo tedescheggiante. Così. Sì. Abbiamo anche scoperto che Marco Felder in realtà è uno slittinista del Liechtenstein. Sì. Non è tra l'altro non è un cognome su tirolese, non ci sono Felder, tranne quello che è morto. In realtà noi volevamo chiamarci Nicola Schmidt di Bari, ma non hanno voluto. Non so perché. Quando l'abbiamo proposto, il nostro agente voleva spararci direttamente. Ma che ne diresti di Nicola? No, che non ci ha neanche risposto, credo. Comunque, tu hai, dico, tornando un attimo, poi magari concediamo. Cioè, mi spiace di non aver avuto lo scontrino per segnarmi delle cose, perché ci hai dato un sacco di spunti, cioè un sacco di spunti molto interessanti nelle cose che hai detto. E, sicuramente la prima, mi fermo lì, perché poi il discorso di confrontarsi con la scrittura di un poliziesco è di come scrivere un poliziotto. E questo è stato indubbiamente il primo passaggio che ci è venuto in mente, che abbiamo affrontato, e che chi deve indagare. E abbiamo ovviamente, perché penso abbiamo un minimo di dignità professionale, l'idea che indagasse qualcuno che non fosse un poliziotto, doveva essere un poliziotto. Siamo ormai abituati veramente a chiunque indaga, insomma, l'avvocato indaga, Aristotele indaga, Soraya, Gesù indaga, il camerlengo del Papa indaga. Ti ricordi che l'abbiamo scritto un racconto con Gesù che indaga? Con Gesù che indaga l'abbiamo, sì, scritto. Solo che risolveva le cose. Ma il Vangelo risolve dei casi. Comunque risolve dei casi. Sì, no, ma infatti, quello è vero. No, dico, cioè, è un australiano. Non Gesù reincarnato che ammazzano uno, lo fanno sorgere, mi chiede chi è stato, cioè, fa tutto lui. Comunque non se ne poteva più, veramente, cioè, scrivi Jessica Fletcher, che insomma, oppure devi scrivere dei poliziotti. Come farlo era anche quello, ovviamente, un punctum dolens della questione, e farlo da, tra virgolette, uomini di sinistra che quindi devono mantenere un loro distacco rispetto all'istituzione oppure calarsi dentro. Noi abbiamo cercato una terza via, in realtà, cioè non ci andava ovviamente l'idea di scrivere il poliziotto buono, rassicurante, che veramente, però francamente ci stava anche sulle balle l'idea di dovere per forza scrivere il poliziotto dannato, scazzato. C'è ovviamente anche quell'aspetto che dici tu, il poliziotto che ha disgusto per quello che comunque sta maturando la cosa, però volevamo anche che avesse un che di realistico, cioè che fossero, i poliziotti ci sono esseri umani, ci sono quelli che votano a sinistra, quelli che votano a destra, per lo più probabilmente ce ne sono di quelli che votano a destra, ma non solo, non è necessario. E hanno, forse, chiaramente non tutti, però più che un credo ideologico di destra, hanno un modo di comportarsi, a volte un modo di vedere la realtà che ha uno spostamento più reazionario, se vogliamo. Appunto, qua non direi tanto destra sinistra, più reazionario. E questo, per esempio, in Tanino c'è, almeno cerchiamo di farcelo passare. Sì. Cioè lui ha un atteggiamento che è un po', appunto, passa per l'atteggiamento un po' virilista in certi momenti, a volte venato di razzista. Io che sono di Messina, c'è molto come rispondo. Cioè, stai scherzando? E poi di fatto lo è, mentre il Faina, diciamo, che è il nostro personaggio preferito, possiamo dirlo, che è ingenuamente razzista, se vogliamo, nel senso che lo è nella parola, nella sorpresa di vedere una donna nera in questura, cioè nella sorpresa, come la tratta, nel fatto di darle del tu e di dirle no, guarda, sicuramente dare per scontato la cosa, ma in realtà lui non è razzista, lui applica un ragionamento automatico che gli è comune dall'esperienza minimale che ha del rapporto con magari altre etnie, e va avanti così, siccome appunto non è esattamente intelligentissimo, quantomeno prontissimo di intelletto, non si chiede, non va tanto oltre, però poi al momento della sostanza, della concretezza, quello davvero razzista o che ha la reazione più forte non è lui, ma scegliamo che sia appunto Tanino il protagonista. Ecco, cerchiamo di camminare su questo rotaia. No. Sicuramente è anche il fatto che appunto il giallo, dicevamo all'inizio, è riportare l'ordine nel caos, no? Ecco, nei nostri romanzi questo non succede. Anzi il caos finiscono, c'è tanto caos, certo, prima. Però lo teniamo presente, cioè è un meccanismo che non, come dicevo all'inizio, cioè non è giusto, credo, ignorare o sbertucciare. Se vuoi scrivere un giallo, devi tenere presente che ha quel percorso. L'ordine, il caos, la gente dell'ordine che cerca di portare l'ordine. Poi lo interpreti come vuoi, però lo devi tenere presente. Anzi, qua c'è proprio un'accelerazione rispetto al primo, secondo me. Una questione di riportare ordine nel caos, qui proprio il caos viene viene sguinzagliato. In questo libro c'è più caos, certo, di prima. Sì, c'è più caos, certo, di prima, caos di prima, molto più caos. Si riparte da una situazione, certo, più caotica. E questo a me è piaciuto molto. Tutti i personaggi, dicevo, subiscono una torsione, e qui ci sono ovviamente dei poliziotti che si mettono in discussione sia dal punto di vista umano che professionale. C'è l'ispettore capo Antonio Moretti che a un certo punto lo dice, no? Chiunque fa il poliziotto dopo i fatti di Genova è un esaltato, no? perché se vai a fare il poliziotto dopo quello che è successo a Genova, cioè chi è entrato in polizia dopo quello che è successo, secondo cioè, me lui si rivendica di esserci entrato prima, insomma lui si rivendica di esatto, non vi dico niente, poi si scoprono alcune cose, anche lui c'ha un percorso che però mette in discussione tutto quello che ha fatto fin lì come poliziotto e anche come uomo, cioè incontra sua moglie che gli ribalta completamente il mondo e non ce la fa più anche nel primo romanzo, già lì che non vede l'ora di andarsene, no, vuole andare in pensione. Quando succede tutto il casino del primo romanzo dice ma porca miseria, ma adesso proprio che stavo per andarmene, no? E tutti, beh, Carle è oltre ogni limite da mo, però mentre nel primo romanzo scatena il caos, guarda nell'abisso, qui invece trattiene il caos, però è sempre attorno al caos che ruotano tutti, sì, loro. Giulia Tinebra, una situazione familiare, un passato devastante. Giulia Tinebra Giulia Tinebra poi è un personaggio che ci è piaciuto, mentre nel primo romanzo era un po' defilata, sì, se vogliamo, ecco nel secondo ci è piaciuto tirarla fuori, era anche la persona con cui sia Carl che Tanino si confrontano in modo diverso, che è un po' un catalizzatore, sì, per entrambi, sì, diciamo, come funziona. Carl fa un gesto verso di lei che è un gesto che per lui è una cosa normale, che per lei invece rappresenta tanto, e Tanino per la prima volta si ritrova con una donna con cui, beh, Tanino insomma ha anche questa parte un po' comica, se vogliamo, è anche un po' stereotipata del Latin lover ad ogni costo, sempre comunque tutte le donne con cui lui ha a che fare c'è sempre ci prova e ci riesce molto spesso, e no, con Giulia no, ecco, Giulia è il suo specchio, anche lì l'altro da sé, e in questo caso l'altro da sé femminile, cioè, c'è una scena in cui si trova, dice, mi trovo tra due lune, e fisicamente si trova tra due lune perché è in una piscina a forma di mezzaluna e sulla sua testa splende la luna, quindi in quel momento si trova tra due lune e è moon shape come... pur esatto, esatto, e poi richiami il radio, poi c'è una presenza di Radiohead, sì, anche dato sotterraneo, insomma, se volasse per cogliere, sì, e in quel momento appunto Tanino si trova tra due dimensioni e lì deve fare una scelta, e quando esce da quella, secondo me quando esce da lì, ecco, si scatena il caos nella vita di Tanino, che fino a quel momento a parte sembrava essersi messo, sì, tranquillo, sì, diciamo, sì. Un elemento di cui non avevo ancora parlato, che è l'andrangheta, perché è molto presente l'andrangheta in tutti e due i romanzi, e fate vedere che Bolzano comunque è in qualche modo controllata dall'andrangheta, altra cosa che uno non penserebbe pensando a Bolzano. Sì, da sempre, io ricordo quando andavo alle elementari c'erano dei miei compagni di classe che insomma ti dicevano, oh, guarda che quelli lì sono del clan La Greca, si chiamava il clan. Usciva, no, una quantità di droga inimmaginabile. Bolzano negli anni Ottanta era un posto dove insomma, si comprava l'eroina così, proprio come le caramelle al supermercato, e quindi c'era tutto il controllo del narcotraffico. Poi col tempo le cose sono cambiate e c'è stato un controllo del traffico anche di esseri umani, e anche un controllo del traffico delle armi che passano, no? E ovviamente tutto ciò che passa su quel territorio deve per forza passare attraverso l'andrangheta. Accordarsi con o direttamente appunto avvalersi dei mezzi degli ndranghettisti bolzani, che suona strano, come cavolo si dice? L'ndranghettista bolzanino suona strano, no, da dire, ma no, anche lì c'è questo ribaltamento totale dello stereotipo della socialdemocrazia su tirolese, quindi serial killer, terroristi, ndranghettisti, sì, ci si diverte. Beh, che sono anche alcuni degli ingredienti della socialdemocrazia reggiana, di Reggio Emilia, dico, non di Reggio Calabria, quindi torna. Sono ingredienti anche dell'alta velocità reggiana. No, perché poi appunto, come dicevamo prima, la pioggia di soldi dovuta appunto alla pace sociale imposta con i miliardi. Dove ci sono i miliardi difficilmente non c'è molto la malavita organizzata, esatto. È chiaro che agisce diversamente, non è che ti sparano per strada, cioè queste cose non le vedi, agiscono in maniera sotterranea, qualcuno lo fanno sparire ma non, è sempre tutto molto molto molto nascosto, però c'è, e la presenza in città almeno fino agli anni 90 era abbastanza ingombrante. No, in realtà ora che ci penso, hanno anche sparato per strada, hanno ucciso un ragazzo sparandogli in faccia in macchina, insomma, no, insomma ci sono stati anche questi episodi qua anche lì, sì. E quindi noi in tutta questa situazione, parlando di polizia e di crimine, non potevamo ovviamente prescindere da questa situazione in cui Tanino si infila già nel primo romanzo cercando un bar dove gli fanno un gelato, e qui torniamo alla parte alimentare. Io ho molto amato la questione della panna nel gelato, sotto la modalità. Cioè, siciliano non può. Esatto. Sì, c'è anche questa, ovviamente abbiamo anche molto giocato sulla la questione alimentare, no? Che sembra che in Italia si parla sempre di cibo anche quando si mangia, e nei romanzi questa cosa torna tantissimo. Poi nei gialli è proprio c'è ovviamente solo dei gourmet. Esatto, gli indagatori sono tutti dei gourmet, tutte che sanno come si fa il caffè, quanto si pressa, quanto, no, sono dei degustatori d'olio, queste robe così, no? Melomani, esatto. Invece i nostri no, e però ci piace giocare sul contrasto nord-sud, quando Tanino nel primo romanzo viene trascinato in uno di questi che fanno i currywurst alle 2 di notte, insomma, con una qualità che vi lascio immaginare, e quindi insomma ci divertiva un po' giocare soprattutto su questo stereotipo in cui il meridionale diceva voi siete dei barbari, no, e cosa cavolo mangiate, e poi però anche lui comincia a mangiare il Bauern Toast, comincia ad apprezzare, dice ma cos'è sto Radler, che schifo, mettete la limonata nella birra, e poi però ma non è così male, mi sento solo la lui. Mia unica critica nei confronti del libro riguarda il folk apocalittico, perché veramente io mi auguro che il libro abbia un grande successo, però allo stesso tempo il grande successo del libro porterebbe il folk apocalittico fuori dalle uniche due nicchie che lo ascoltavano, cioè quella di chi lo ascolta perché gli piace e quella di chi come me, Jadel, lo ascolta per prenderlo per il culo, e invece voi fate conoscere un genere che ignorato da tutti ad altre persone, e quindi forse ci toglierete questo piacere, insomma. Esatto, quindi dici che quel si piacere diffonderà. Di nicchia, no, che capito, si diffonderà. Sì, il sottogenere musicale più nazi che esista, sì. Sì, è anche un genere abbastanza inascoltabile, ma sono veramente pezzi. Infatti io sono d'accordo con la recensione di Tanino. Sì, esatto. No, non ve l'anticipiamo, la leggerete, ma insomma è anche abbastanza concisa e precisa. No, sì, beh, il folk apocalittico, non so, ci sembrava talmente assurda questa scena musicale che immagino tutti voi conosciate, che non potevamo non metterla in un romanzo, ma è talmente surreale che sembra quasi che ci siamo inventati. E poi sottile. No, ma è molto adatta, infatti, cioè, perché per Bolzano è perfetto. No, ma c'è proprio una scena. È la scena, c'è proprio una scena. Sì. Ma non potrebbe che essere, cioè, voglio dire, sì. Difficilmente ci potrebbe essere una scena reggae a Bolzano, una scena di folk apocalittico. Sì, ci sta. In realtà c'è proprio una reggae a Bolzano. Sì, penso. Però più afro, più la dominante. Sì, l'afro, insomma, sì. Che poi sono tutti fascissimi. Afro, insomma, anche qui dicotomie. Prossimo romanzo di afro fasci di Bolzano, ovviamente fascisti. Tra l'altro vorrei farvi notare che uno dei cantautori country, a proposito di cowboy su tirolesi, più apprezzati negli Stati Uniti è George McAnthony, che è di Appiano, sulla strada del vino. Ah, come Bolzano, vedi, quindi insomma. Comunque, quindi se volete esplorare il folk apocalittico, sappiate che questo è un buon punto di partenza per finire in luoghi veramente... Faremo noi una playlist che poi... Esatto. Vi consiglio di partire dagli Argini, da Rose Rovine Amanti, insomma l'altra sera abbiamo fatto un concorso di ascolto. Cioè, fanno anche delle cover dei Castelbruzzo Spezia? No, purtroppo no, perché insomma poteva essere interessante. Tanto folk, è vero. Comunque un genere imparodiabile, non puoi farne una parte. No, è già meta. Sì, sì. Va bene. Si può acquistare, vero? Penso di sì. Come se fosse un libro vero. Sì, esatto. Esatto. C'è perfino un prezzo. Grazie comunque di essere stati qui ad ascoltare. Vabbè, facciamo.